Giro di Re. Fiabe e leggende della tradizione popolare italiana. Ciao, io sono Maurizio Mosetti e questo è Giro di Re. Si tratta di fiabe e leggende della tradizione popolare italiana. Racconti di giovani immortali, zappatori musicisti, barbieri, orologiai, figlie da maritare, re, principi, bambini, ragni e sarcicce. Sono storie di ieri, di oggi e per sempre. Buon ascolto. Le 24 figlie. Ci stea una volta una madre che tenia la bellezza di 24 figlie sole. C'era una volta una madre che aveva la bellezza di 24 figlie nubili. Figurate, povera femmona, quanti sacrifici faceva per tirarle innanzi. Figuratevi, povera donna, quanti sacrifici faceva per andare avanti. Ma più faceva e più non contea niente. E così stia tutto io giorno a cervellasse per capire come poteva tirare innanzi. E così stava tutto il giorno a scervellarsi per capire come andare avanti. Almeno, pensava che la poraccia, ma se ne potesse sposare ad una di quelle più rosse, così so più poche e ti rimananzi meglio. Se continuiamo così, è un guaio russo. È un guaio, sì, è un guaio grosso. Ma sì, e come li trovi sti mariti? Pure perché tutti sapevano che ste figlie non tenevano niente. Né pista né da pista. Va bene, le cose stavano così. Quando un giorno si sentì dire che al paese vicino c'era una fiera. Allora la madre disse alla figlia più grande: «Perché noi imo alla fiera?» «Siamoce puro, a così vedimo un poco di gente, ai che non si vede mai nessuno». «Vabbè, veste deiamo». Quando la figlia si fu vestita, si avviarono per andare alla fiera. Una volta arrivate, incominciarono ad andare su e giù, su e giù. La figlia si rivolge alla madre e le dice: «Ma tengo da fare un bisogno». «Figlia mia, aspetta che arrivimo a casa, poi fa quello che t'ha da fa». «E non ce la faccio più, né». «Beh, nascondete al luogo d'arredo, che non vede nessuno». La figlia si nasconde dietro la madre e si mette a fare quello che doveva fare. «Ma che vuoi sentire?» Era appena ingomenzato e si sentì tirare a certe cannonate che pareva la festa della Madonna dei Zangati, tanto che la gente lì intorno si girava per vedere che era successo. Mezza che la gente ci si trova un cannoniere che, come ha visto chi era che spareva tutta quella batteria, dice: «Madonna mia! Questa è proprio la moglie che mi ci vuole per me. Così se ci sta una guerra, mi farei sparagnare la pollere e le palle». Detto fatto, quel cannoniere si avvicina alla madre e le dice: «Me la dà figlio da per moglie?» La madre, che non voleva altro, non se lo fece ripetere e gli disse: «Vabbè». Dopo un po' di tempo ci fu lo sposalizio e la madre andava predicando per tutto il paese: «Ne sono maritata una e una a Ita!» Dopo un po' di tempo, la madre venne a sapere che in un altro paese vicino c'era una fiera. Va dalla seconda figlia e le dice: «Figlia mia, volemo io alla fiera!» E che la dice: «Iamo un po'!» Sa ore mutate e a Ita chiglio paese ando ci stia la fiera. A un certo punto la figlia dice: «Ma teneria da piscià!» «Vallo godrete e falla!» La figlia fece così. «Ma che vuoi vedere?» Dopo un minuto che la piazza era diventata un lago. Un mugnaio che stava passando lì e aveva visto quella scena disse: «Questa è la moglie che mi ci vuole per me! Così quando mi manca l'acqua agli fosso per far girare il mulino, con una pisciata mi farei girare la mola!» Si avvicinò alla madre e le disse se gliela dava per moglie. Quella, contenta come una Pasqua, ci disse subito di sì. Pure la figlia era contenta. E così La settimana appresso vi gettero lo sposalizio. Stretta la foglia, larga la via, diciate la vostra che ve so detto la mea. Ma dei 24 sono soltanto due. Beh, oh, baciate io culo all'altre 22. Giro di Re. Fiabe e leggende della tradizione popolare italiana.